Ad alta voce, Sandro Lombardi legge Le terre del Sacramento di Francesco Iovine. Undicesima puntata. Dolce autunno a Morutri. Erano incominciate alla fine di ottobre pioggerelle lente, impastate di nebbia. Una benedizione di acqua notturna che durava fino alle prime luci dell'alba. Era l'ora in cui i cafoni uscivano per la semina. Ai margini delle terre del Sacramento lavoravano i marano, i cirella, i minadeo, i colangelo, tutti affittuari di Enrico Cannavale. Un giorno Seppe Marano, voltando la coppia di asini che tiravano l'aratro, aveva superato i confini. «Sei andato un'altra volta più in là del termine», disse Immacolata, quando vide la pietra scura di confine spiccare sulla terra smossa. «Non faccio niente di male», rispose Seppe. «C'è ancora buona terra prima che incomincino le pietre. Che faccio di male se l'aro e la semino?» «È terra di Dio, Seppe. Dove incominciano i terreni del Sacramento non si può più lavorare. Dove c'è terra buona, il Dio la benedice, Immacolata», disse Seppe. «Questo è fiore di terra e non si può lasciarla così senza ararla. Nella piana le hanno arate la primavera scorsa le terre dei Pavoncelli. Sono stati i contadini di Fadena. Volevano seminarla senza pagare il fitto al padrone». Parlava Arduino Maranca, un bracciante di 30 anni che aiutava i Marano. «Lo so, lo hanno raccontato anche a me», disse Seppe, «ma poi è finita male. Non si può prendere la terra ai padroni. Vedi, io ho arato, ma non prendo niente a nessuno. Se Felice Protto se ne accorge, io sono pronto a pagare. Io faccio una cosa buona. Sono pronto a pagare se me lo dicono. Ma quelli che erano nella piana non volevano pagare niente». «E facevano bene, sangue di Giuda», disse Arduino. «Quella era terra che da 300 anni non lavorava nessuno. Se non la lavorava nessuno, non apparteneva a nessuno». «Non c'è la legge, secondo te?» disse Seppe Marano. «Il padrone ci pagava le tasse su quelle terre e ne faceva quello che voleva. Fregava i soldi agli altri cafoni che gli lavoravano la terra buona e pagava le tasse anche per quella cattiva. Questa è una buona legge?» «Quando eravamo al fronte», continuò Arduino, «eravamo 7 paesani nello stesso reggimento, 4 di Morutri e 3 di Pietrafolca, e dicevamo che quando finiva la guerra ci sarebbero state leggi nuove». «E invece c'è sempre la legge vecchia», disse Immacolata Marano, puntando il sarchio sul solco e appoggiando le mani sulla punta del manico con attitudine guerriera. «Zappa se vuoi mangiare», aggiunse. «Io voglio zappare, ma non c'è terra, zia», disse docile Arduino. «Voi parlate così perché avete terra al Calandro, ma qui, a Morutri, a Pietrafolca, a Samanna, siamo centinaia senza un pugno di terra. E andiamo a giornata come pezzenti». «E che vuoi fare?» disse Immacolata. «Noi abbiamo 3 fazzoletti di terra al Calandro e siamo 7 persone a lavorare. Non ci basta la terra. A nessuno basta la terra. Ma non vogliamo fare peccato». «Tu dici che noi faremmo peccato se coltivassimo le terre del Sacramento?» disse Arduino Maranca. «Ho parlato con i compagni di Pietrafolca e molti dicono che con la legge nuova noi dovremmo coltivare le terre del Sacramento». «Terra rubata alla Chiesa», disse Immacolata Marano. «Tutte le volte che si zappa, un fulmine colpisce la cappella. Questo lo sappiamo tutti». Arduino scuoteva la testa per dire che non era persuaso. Ci fu un attimo di silenzio, poi Seppe Marano aggiunse: «E poi non c'è acqua, sono terre da legna e da pascolo. Se le zappi, dove vai a pascolare le pecore? Anche le pecore sono animali di Dio e debbono mangiare. Arduino si grattava la testa sopra pensiero. Poi disse: «Se si coltiva, io dico che c'è da mangiare per tutti, uomini e bestie. Così nasce l'erba all'avventura. Ma io ho visto l'erba coltivata anche per gli animali. Ci vogliono soldi, Arduino. Ci vuole l'acqua. Ci vogliono animali grossi. Trova, trova, Arduino», aggiunse Seppe ridendo. «Trova e fatti papa. E poi, tu non pensi che qui c'è un padrone?» Arduino rispose: «Pasquale Ficetra, che capisce, ha detto che la terra è di chi la lavora. Lo diceva anche questa estate nella piana e lo hanno impallinato». Seppe Marano, che aveva smesso di arare, zappettava sui solchi col sarchio. Dopo qualche attimo di silenzio riprese: «Mi hanno detto che a Fidena si erano ribellati 500 mietitori. Un giorno sono stati circondati da gente armata e a cavallo, che portavano la camicia nera per riconoscersi. Correvano come il vento tra i boschi e i campi. Erano aiutati dalla legge. Dietro venivano i carabinieri. C'è la legge, Arduino». Mariangela, mentre il padre parlava dei cavalieri neri, si era avvicinata con il piolo in mano e ascoltava a bocca aperta. Poi disse a un tratto: «Ma qui non ci vengono mai?» «Liberaci, Signore!» fece Immacolata segnandosi. Ripresero il lavoro. Arduino spargeva il grano attingendolo alla sacca legata alla cintola. Immacolata e la figlia sarchiavano per ricoprire il seme. Immacolata, a un tratto presa da un'improvvisa preoccupazione, disse al marito: «Bisognerebbe spostare il termine, Seppe. Se viene Felice Protto e si accorge che sei andato più in là, incominciano le storie». Felice Protto, come chiamato dalle apprensioni di Immacolata, spuntò dalla serretta delle camarelle e venne verso il maggese dei Marano, seguito dai due guardiani Stefano Versa e Colati Rappa. Seppe, vedendolo di lontano, si diede furiosamente ad accumulare terra intorno al termine. In pochi istanti la pietra di confine scomparve. Felice Protto, non appena giunto ai limiti del maggese, si diresse dalla parte del cumulo di terra e incominciò a disfarlo col piede. «Buongiorno, Felice», avevano detto quasi in coro i contadini, e Felice aveva risposto «Buongiorno», ma continuava a dar colpi di piede alla terra accumulata. Comparve il termine. «Non ci pensavo, Felice», disse Seppe. «Si va per il campo e si pensa al solco. Siamo sempre pieni di guai, Felice. E il termine, chi lo vede?» Felice non rispose. Fece un gesto vago con la mano, come per significare che era inutile la giustificazione di Seppe Marano. Poi disse: «Quando hai finito, sposta il termine, Seppe». L'accento di Felice Protto era insolitamente dolce. Tutto l'atteggiamento dell'uomo era nuovo per quei contadini che, per anni, avevano conosciuto la sua severità e la sua avarizia. Seppe si grattava la testa e barbugliava: «Quello che c'è da pagare, si paga. Seppe Marano è uomo di coscienza, Felice». «Non c'è da pagare niente. Io non ho visto niente. Da oggi non vedo più niente». Il terzo niente lo disse con tono melanconico e rabbioso. Seppe lo guardò ancora un attimo perplesso, tacendo. Immacolata Marano, che non aveva fiatato fino allora, disse: «Guai, Felice?» L'uomo allargò le mani come per indicare l'estensione delle sue sciagure. «Ho 5 figli anch'io, Immacolata. 8 bocche a casa. E Felice è ricco. Felice è ladro. Ho dato il sangue mio, Immacolata. Mi avete visto per 30 anni su questi sassi, in queste terre maledette da Dio. E adesso Felice non serve». «Come non serve?» fece stupito Arduino. «Tu servi come il cane al padrone». Felice sorrise tristemente. Una volta, il tempo passa, succedono tante cose. Chiamò con un fischio i cani che si erano allontanati e avviandosi disse: buona fortuna a tutti. Sono venuto a dirvi buona fortuna. Ma che sarà successo? Chiese Arduino. Dovresti fartelo dire da Luca che sta a Calena, Seppe? Luca viene domani, che è domenica. Domani tutta Morutri viene a casa mia. Luca si è fatto uomo dotto, Arduino, aggiunse. Chi vuol sapere viene da Luca. È una processione. La lettera, la domanda, le tasse. Tutte le carte di Morutri passano in mano a Luca. Fa onore al mondo, Luca, col volere di Dio. In novembre Luca era tornato a Calena. Era stato a Napoli a fare gli esami all'università. Conosceva la città per esservi stato qualche giorno l'anno avanti e non aveva avuto tempo di conoscere se non le strade del centro. Ma quella seconda volta era rimasto 15 giorni. Alla stazione di Pesco aveva incontrato uno studente intorno alla trentina che veniva da Caccavone, vestito anche lui di scuro, con una sacca di viveri tra le ginocchia. Avevano preso una camera in due al Lavinaio. La mattina mangiarono, appena alzati, delle grosse fette di pane e salsiccia. A mezzogiorno Giulio D'Angelo, che era al sesto anno di medicina ed era esperto della città, lo portò a mangiare dalla Calabrese, un'osteria che era poco lontana dal vicolo dove abitavano. Un antro, ricavato da 3 o 4 bassi, dove non si cucinava che minestra, baccalà e si facevano bollire interiora di animali. Ogni piatto costava 1 lira. La stanza in quell'ora era affollata da decine di giovani studenti, tutti vestiti di scuro come Giulio e Luca, quasi tutti neri di capelli, di colorito bruno, scattanti come cavallette. Mangiavano con appetito voracissimo la minestra di fagioli o le trippe bollite, addentando grossi bocconi di pane casalingo. Erano calabresi, pugliesi, lucani, molisani, quasi tutti figli di contadini, di artigiani, di minuscoli proprietari di terre. Mangiavano raggruppati secondo il luogo di provenienza. Luca si accorse, dopo qualche giorno, che portavano un colletto simile al suo e avevano quasi tutti un leggero bastoncino di bambù. Non riusciva a capire a che cosa potesse servire il piccolo bastone, ma non osava chiederlo per timore di apparire ridicolo. Ma qualche mattina dopo, mentre scendeva per i vicoli, riconobbe un gruppo di compagni fermi accanto a un carnacottaro. Acquistavano un pezzo di montone bollito e lo inserivano con un gesto fulmineo tra 2 fette di pane. Poi si erano messi in marcia mangiando. Tenevano nella destra il pane, nella sinistra la loro canna di bambù, alla quale imprimevano un movimento leggero, rotatorio, di squisita leggerezza ed eleganza. Quello stesso bastone serviva a imprimere energia ai loro ordini per Filippo, il cameriere di donna Peppa, padrona dell'osteria calabrese. «Filippo, mezzo fagioli!» E l'ordine, detto con tono perentorio, era seguito da 2 colpi del bastoncino sulla tavola nuda. Luca non aveva coraggio di alzare la voce per chiedere il suo piatto. Aspettò che Filippo, sudicio, maleodorante, con le mani unte di broda, gli passasse accanto. Lo prese per la manica e disse anche lui, ma sottovoce, «Mezzo fagioli». Il cameriere gli chiese, «Mezzo fagioli, dottore?» a bassissima voce. Aveva fatto un inchino e un sorriso con la bocca sdentata. Poi trasse dalla tasca un taccuino e, fingendo di scrivere, disse: «Dunque, hors d'oeuvre varié, spaghetti a vongole, tournevaux alla financière, fromage gâteau chablis». Poi, sollevando improvvisamente la testa, gridò: «Mezzo fagioli!» Luca lo guardava sbalordito. Quando ci fu il grido finale di Filippo, tutti i compagni della sua tavolata scoppiarono a ridere. Filippo accorgendosi che il suo vecchio scherzo, ripetuto ancora una volta, aveva conseguito l'effetto desiderato, si volse e disse a Luca, inchinandosi: «E uno stecchino, vero, dottore?» «Ti sfotte», disse Giulio D'Angelo. «Lo fa sempre, con tutti i novellini. Filippo è stato cameriere in Francia durante la giovinezza, prima che la sifilide gli mangiasse i denti e il cervello. Hai fatto il tuo esame stamattina?» chiese Luca per avviare il discorso. «L'ho fatto, 18. E così? Hai finito?» «No, ne ho altri due e la tesi alla fine di novembre.» Luca tacque, poi disse: «Che fai dopo la laurea?» «Torno a Caccavone. Tu sai dov'è Caccavone, no?» «Ah, lo sai. E non è molto lontano dal tuo paese.» «E ti metti a fare il medico lì?» «Veramente io direi che è inutile. Ci sono altri 4 medici a Caccavone. Io sarei il 5º. Quelli sono figli di signori. E anche se guadagnano poco, per loro va bene lo stesso. Io, se rimango, andrò con le pezze al culo per tutta la vita.» «E allora che fai? Vai via?» «Vorrei emigrare. Ma mia madre mi ha promesso di morire se parto. È vecchia e malata. Ed è capace di mantenere la promessa.» «Si può partire per l'America?» chiese Luca. «È difficile, ma si può.» «Ma tu che ci andresti a fare? In America i paglietti non li vogliono più. E tua madre che direbbe se tu partissi?» «Noi siamo 6, disse Luca. «Uno più uno meno. Ma quando è lì non ti lascerebbero andare. Io lo so. Qui dentro tutti abbiamo genitori e fratelli che fanno la fame per farci studiare. Osterie come questa ce n'è all'Avinaio, Borgo Loreto, al Vasto. Io le conosco tutte. Ci vanno migliaia di giovani che piovono a Napoli 2 volte all'anno. C'è la migrazione degli studenti come quella delle cavallette. E per un mese o 15 giorni, mezzo fagioli, Filippo, a mezzogiorno e mezzo spaghetti alla sera. 2 visite a un bordello di Porta Capuana e la festa è finita. I fortunati rimangono 4 o 5 mesi, ma a casa si va vestiti di stracci per mantenere i figli in questo lusso. Fanno sacrifici per migliorare la nostra sorte», disse Luca timidamente. «Ah, sei un bel coglione», riprese D'Angelo leggermente stizzito. Ci arrestò un attimo e chiese a Luca: «Vuoi bere un po' di vino?» «Ho un esame alle 4 e poi non vorrei farti spendere.» «Questa volta mi hanno dato più soldi, supponendo che fossero gli ultimi. Scialo, mio caro.» Arrivato il vino, Giulio D'Angelo riempì i bicchieri e aggiunse: «Tu dici che fanno sacrifici per migliorare la sorte dei figli. Ti sbagli. Mettono i capitali a frutto, tirano una cambiale sulla loro pelle. Ecco perché non te ne puoi andare in America. In America ci vanno i cafoni, non i figli con la laurea in tasca. Quelli rimangono a casa per maritare le sorelle e proteggere il parentado.» «Tu ragioni bene», disse Luca. «Tutti ragionano bene su questa cosa. A Calena io ho dei compagni...» «Ragioniamo tutti bene e siamo tutti dei coglioni. Qui dentro molti sono in grado di capire il nostro ragionamento, ma hanno il bastone di bambù. Si fanno sfottere da Filippo e ogni tanto vanno ad assalire le associazioni degli operai insieme coi fascisti. Picchiano sui loro padri per rispettare la canna di bambù.» Giulio tacque. Luca, che lo aveva ascoltato con intensa attenzione, disse dopo qualche attimo, con lentezza, scandendo le sillabe: «Ho capito.» «Beh, addio», fece Giulio. «E auguri per il tuo esame. Scola la bottiglia se ti va. Bevi, bevi e fottitene dell'esame. Sei forte come un toro, non ti può far male. A me fa rivoltare lo stomaco. Dispepsia.» È troppo tempo che mangio in questa porca maniera. Luca ingollò due bicchieri di vino, uno dietro l'altro. Aveva un piacevole calore in tutta la persona, ma la sua testa era lucida come un cristallo. Seppe Marano aveva sparso la voce che Luca, presentandosi davanti ai professori dell'Università di Napoli, li aveva fatti strabiliare per la sua sapienza. Gli avevano dato tutti i punti. Il presidente, quando Luca aveva finito di parlare, gli aveva detto: 30 punti ieri e 30 oggi. I punti sono finiti. E siccome non abbiamo più punti, ti diamo la lode. I contadini di Morutri erano contenti che il figlio di Seppe Marano diventasse uomo dotto. Avevano cominciato a dargli piccoli incarichi per i loro affarucci a Calena, ufficio del registro, agenzia delle imposte, querele da fare, querele da rimettere, giudizi assurdi da intentare per la spartizione di 3 fasci di fieno. Chiedevano consiglio a Luca con un diluvio di parole, raccomandandogli per tutti i santi di non far spendere loro i soldi, di non metterli tra i denti dei lupi di Calena. Luca ascoltava, prendeva appunti su d'un taccuino e faceva del suo meglio per accontentarli. La domenica seguente tornava con la risposta, con la piccola pratica risolta, e si prendeva le lodi e i ringraziamenti di Giovanni Procaccitto, di Marco Lomma o di Francesco Di Lazzaro. «Ti aiutiamo, Seppe», dicevano. «Il ragazzo deve imparare, e con queste cose che gli facciamo fare noi lo aiutiamo a imparare». E non gli davano nulla. Talvolta si presentavano con un pollo, una coppia di uova, una formetta di cacio caprino, e Luca empiva uno zaino militare che gli avevano regalato e si portava le provviste a Calena. Nella sua ultima visita a Morutri, Luca aveva notato che il paese era tranquillo. Ormai i soldati erano stati quasi tutti congedati e le vedove dei caduti prendevano le loro pensioni di 50-60 lire al mese e facevano le puttane per non perderle. «È la corruzione pagata dal governo», diceva Don Settimio a Don Fortunato Acierno, il medico che veniva 2 volte alla settimana a scavalco da Pietrafolca. 50-60 lire al mese a donne giovani che hanno il sangue che brucia e che dovrebbero riprendere marito o ammazzarsi di fatica per vivere. Pagarle è come dire: fai il comodo tuo e a darti da mangiare ci penso io. Ma hanno dato il marito alla patria, diceva Don Fortunato. Tutti i morti sono uguali, tutti muoiono per volontà di Dio, tutti vanno in guerra, alcuni muoiono e altri no. Il Dio sceglie. Chi resta deve piangere. Se non piange, si sottrae al castigo di Dio. Don Settimio aveva gli occhi foschi, le guance cascanti e il colorito giallognolo. Il dottor Acierno, dopo averlo ascoltato qualche istante, gli chiedeva a bruciapelo: «Come va la dieta, Don Settimio?» Il prete rispondeva con voce contrita: «Solo il vino della Santa Messa, Don Fortunato. Quello lo devo bere perché è il sangue di Cristo». Da quando beveva solamente il vino della messa, Don Settimio non urinava più sangue. Ai primi di settembre aveva temuto di morire. Una notte, all'improvviso, si era sentito intorno alle reni una cintura di fuoco, un cilicio con le spine roventi che gli pungeva profondamente le carni. Si era rivoltato nel letto per un'ora, invocando i santi. Caterina si muoveva per la stanza dicendo: «Madonna, aiutalo! Ci vuole il medico, Caterina! Ci vuole il medico! È notte, Don Settimio! E bisogna arrivare a Pietrafolca! Don Fortunato è vecchio e non gira di notte! Viene domani mattina, è il suo giorno! All'alba sarò morto, Caterina! E non c'è un altro prete per raccomandarmi l'anima!» Vasiva mugolava per il dolore e baciava, spargendo infuocate lacrime, il crocifisso che aveva sul petto. Dopo un'ora di gemiti aveva orinato e aveva empito il pitale di sangue. Mi si svuotano le vene, aveva detto sbiancando in volto, ed era svenuto. Caterina sulle prime pensò che fosse morto e tremava in tutte le membra. Poi si accorse che respirava con affanno, un respiro lungo che gli faceva gorgogliare un bioccolo di bava giallastra agli angoli della bocca. Caterina gli inzuppava le narici di aceto. Lentamente Don Settimio aveva ripreso coscienza. La fitta alle reni si era calmata. Aveva potuto bere una tazza di caffè. Don Fortunato, che lo aveva visitato verso le 9, aveva diagnosticato una grave colica renale e gli aveva ordinato di rimanere a letto almeno 15 giorni. Caldo e latte, solo latte. E poi, ancora per mesi, latte, latticini, frutta, niente maiale, tutto in bianco. Tutto bianco. Latte e ricotta come i bambini, diceva Don Settimio a Caterina. Aveva le vene smunte, l'anima amara, sentiva che il Signore lo aveva privato della sua grazia. Si trascinava davanti al sagrato con le braccia cascanti, il fiato corto. Rimaneva immobile pomeriggi interi a guardare l'anello della provinciale che cingeva Morutri a sud, come se attendesse il rumore di un veicolo o l'arrivo di una processione. Ma per la provinciale non passava che il carretto del Procaccia postale alle 11 e poi più nulla. La notte Don Settimio non riusciva a dormire. Andava a letto a stomaco leggero e il suo povero sangue gli irrorava le vecchie arterie del cervello e lo teneva sveglio. Dei suoi giovani anni aveva conservato orecchio finissimo. Con gli occhi aperti, al buio, seguiva i rumori del villaggio. Sentiva i passi dei contadini che andavano al trappeto a far l'olio o il suono lontano di una fisarmonica in una casa nella quale si ballava. Sandro Lombardi ha letto Le terre del Sacramento di Francesco Iovine. A cura di Fabiana Carobolante, con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone, Diego Marras e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.